attacco di rabbia. E vabbè, io sono sempre questo, tradizionalmente sono sempre 40 canali, dai. Già va bene, non è male, però volevo fare qualcosa di più. Fagli la cura della persiana, fagli. Embriaco, te l'ho detto. Inizia a cambiargli le casse, così senti meglio la persona. Ah, sì. Ma tu, boh, è che sei due? Sì, Fabrizio. Fabrizio chi? Fabrizio Corona? Ah, Antonio, mamma mia. Ma la voce di tutti c'ho io, Anto. Mi hai sentito comunque, mi senti anche a Luca, l'altro amico di cui non ho copiato il nome attivo. Allora, pausa, Claudio. Oh, santo. Perché sono apparecchio stesso per sentirti. E siccome la sindrica è un po' uguale, il gioco sempre la cosa, Fabrizio mascherato, e il motore mi confondo. No, allora già la stessa persona, dai. Allora già sei giustificato. Che non capito questo discorso, che ciao Club, ben sentito Antonio Grode. Antonio Grongo. Grongui. Grongui. Ah, Antonio, il vicino Daniele, ho capito, da tanto non ti sento. Ciao, buonasera. Di capa, ciao, ben sentito. Non sai che quando ci sono io Luca si nasconde. Io sei qua. Che ragazzi? Ah, tu ce l'hai fatto per nascondersi. Che teme il segnale, capito? Segnale? Rode, sta con la pipossi. Segnale chi tuo? Già. E se si arriva da lì oggi, no? Senta poi per un cino. Poi ti passa Antonio con l'antenna piccola. So che sono piccolino io. Stiamo qua a passare Rode, che è 9.25 qua. Io sto uscendo con, guarda, adesso me ne sta segnalando, c'ho 2 watt, 3, e il baracchino che sta funzionando comunque male. Attenta, Antonio, esatto, il baracchino che invece i gemelli sempre in chimimi, parcheggiati. Come qua? Oh no, prova a farti 2 chiacchiere con l'amico tuo. Sì. Ehi, con l'amico tuo, il tuo vicino. Oh, c'è una benna, sta disturbando tutto il vicinato. Lo so. Ah, lo sai e non fate niente. Io posso fare solamente che sto uscendo con 3 watt, cosa posso fare? Lo so, tu controllate bene, fate qualcosa, sollevate le antenne, se no è un casino. Ma la verità lo sai, te lo dico io qual è, che il torto è dall'altra parte, capito? Perché sono stati fatti impianti da quello che c'aveva il negozio in via d'Italia lì, e sono stati fatti con i piedi, e quindi si porta dentro tutto. No, allora verificate, fate come abbiamo sempre fatto, verifica per verifica tu, se lui è torto non è che ce l'avete a pagare voi, a me dispiace non sentire gli amici, quando io a me chiamo una persona e mi dice non posso modulare perché sto disturbando, questo sto disturbando bisogna verificare, sono io, è colpa mia, non è colpa mia, quindi cioè, vedete un po', non ci avete il moccio nel naso, no? E cappa, infatti, il problema è questo, che a parte che se li dovevano pagare, comunque a prescindere da questo, ti ripeto, tu stesso mi stai dicendo che sto arrivando così, quindi è appurato che sto uscendo al di sotto di quello che dovrei uscire, capito? Quindi non è questione di cosa pompata, l'antenna all'altezza adesso è a 5-6 metri dal piano di terra, quindi figurati, più di così. La verità è che molti qua, per non sostituire l'antenna, si mettono l'amplificatore, e l'amplificatore pure da qua lo vedi Monteoro, capito? L'amplificatore è fuori legge, quindi chiunque metta l'amplificatore tu puoi fare i tuoi reclami, puoi fare, a parte il fatto che l'escoradio non si paga più, con la nuova legge europea del Ministero delle Telecomunicazioni non si paga più l'intervento, quindi tu chiami le dici qual è il tuo problema, tu sei in regola, allora chiami e gli altri si devono mettere in regola, perché non è giusto. Ma tu sai comunque che prima di intervenire o comunque di bussarti la porta stanno giù, capito? Vedono un attimino con quanto stai uscendo e dopodiché se il caso intervengono, non è che fanno brutte figure, già lo sanno come muoversi. Già lo sanno, quando si muovono è troppo tardi, allora lasciati vedere da uno che ha avuto l'esperienza 30 anni. fa fotti di dito. Sì, sì, io ho preso quello che ho, vedi bene che non me ne ha fotti nulla a me della patente superiore, però quando mi suona il campanello posso dire avanti, prego, capito? Sì. A buon intenditore poche parole, quindi quando si muovono è troppo tardi, io che ho appena, perché qualcuno se l'ha scampata per miracolo. Grazie per il consiglio, comunque terrò d'occhio la situazione. Terrò d'occhio lì in quel vicolo, Anto, te lo dico così, a livello di amicizia, non ti conosco, ma ti sento in radio, mi dispiace perché ho chiamato una persona, come me non stai più parlando, e mi ha espresso il suo parere negativo, molto negativo, e questo mi dispiace perché a volte sembriamo che siamo sempre noi che diamo fastidio alla gente, mentre a volte è la gente che dà fastidio a noi, quindi se qualcuno ha veramente qualcosa da dire o da fare, basta che chiami e poi si vedrà. Io ho torto, perfetto, pago, però siccome torto non ne ho, allora paghi tu, che mi stai disturbando tu a me, perché io pago le tasse come te, e quindi, e qua chiudo il discorso, vedete voi. E io ti ringrazio comunque per questo. Comunque, un attimino di QRX per me che c'è il caffè pronto, dai. K, vai Anto. Ciao. Sì, sono qua. Sarebbe ora un po' di farti un po' rispettare. E loro devono mettere gli impianti a norma, perché hanno rotto veramente le palle questo studio qua. Come se vede un palazzino con tutti i campi all'asse di l'aria, già a rumore, faccio un bel casino. Però quando si disturbano loro, no, nessuno li fa niente. Ma guarda, io te lo dico molto apertamente, io non ho problemi, di nulla, non nascondo niente, non ho mai nascosto i miei consigli nei confronti degli altri, li ho sempre accettati, se sono consigli buoni. Quando io sono venuto qua ad abitare, mentre quando ho terminato tutto, guarda, puoi chiedere a Franco California che è l'unico che ha seguito tutto, perché abbiamo Mario Mansell, c'era, non me lo ricordo, ma Mario c'era il furgone, c'era Franco, io, poi c'era qualche altro amico mio. Comunque, al momento in cui abbiamo sistemato tutti i mobili che io ancora non ci abitavo, con Franco, un sabato mattina, abbiamo preso tutte le radio, le abbiamo tutte sistemate, le abbiamo piazzate l'antenna. Non ci è passata neanche una settimana, forse, due o tre giorni. Mi ha telefonato l'amministratore, mi ha detto, signor Claudio, ha sistemato tutto, ho detto sì, non c'è nessun problema, geometra, tutto ok, perché è un geometra. Ma detto, le devo dire una cosa però, c'è la signora di fronte che ha dei problemi da quando ha visto la sua antenna, ha visto la sua antenna. Ho detto, va bene, se ci sono problemi io sono qua. L'ho detto, mi faccia sapere, non mi ha più chiamato. C'è passata un'altra settimana, mi ha fermato una signora nel mio palazzo che abita all'ultimo piano, che era proprio la padrona dell'attico, che è amica di questa signora anziana, tra l'altro, che abita proprio di fronte a me, proprio di fronte. Non di fronte, a fianco, ho sbagliato io, non di fronte, a fianco, proprio nella scala a fianco a me. Mi ha detto, signor Cla, così e così e così, la signora Tizio mi ha detto che ha bisogno di parlare perché da quando lei ha piazzato l'antenna non vede più il televisore. Ho detto, va bene, sono qua, sono disponibilissimo, non c'è problema, signor. Ci immagini, non... controlliamo, verifichiamo se è colpa mia, se è colpa sua, niente. Va bene, lì si è terminata. La domenica mi devo vedere con Franco Califfo. Allora, detto, Fra, fammi la cortesia, dobbiamo verificare questa cosa. Ma Buffonelli dice, io pronti, ho dato un portatile a lui, un portatile a me, l'ho detto, verca c'è questa signora. È andato, finisce una portante, lui mi ha chiamato, schiaccio, televisore, anche la voce, te no, grazie. Qua bisogna fare qualcosa. Allora ho chiuso, sono andato lì, ho detto, signora, dove c'è l'antenna? E all'ultimo piano così e così, ma qua c'è l'altro ripartitore, sì. Alziamo che la mansarda, tutto in terra, tutto lampada in terra, centralina, tutti gli adascocci, i ripartitori tutti in astratti, con i fili aggiunti, tutto. Franco già pose le mani in capo, cosa facciamo qua, Fra? Tutto nuovo, via, proviamo, non me ne frega un cazzo se spendo 50 euro, non me ne frega niente, tutto nuovo. Siamo andati a Pugia, l'abbiamo preso tutto e ha cambiato tutto Franco. Torniamo a fare la prova, manco una riga, manco 1000 watt. nuda, niente. Questa signora, i gradi si sentivano alla ginara, perché a titolo di disturbo, di amicizia, di cortesia, non bisogna disturbare nessuno. Però se tu sei in buona fede, che cerchi di aiutare la gente, tutto va bene. Quando la gente si punta e ti dice, cazzo, va bene, fare così, ci viene da guru. Siccome questa signora era troppo gentile, mi dispiaceva di turbarla, e abbiamo sistemato tutto a spese mie, ma la colpa era la sua, e attenzione, non era la mia. Quindi di questa gente così, allora sai quanto mi ne è? E allora, ma la romperti le palle, cosa? Allora, che cosa fa? Si fa di disimare chiude, da non so che faccio in più. Quindi, io con tutto da una parte, quindi una alla 48, lo porti a farlo fermare per non prendere colpi, e poi lo piatti a posto, sì. E poi c'è un mazzetto, che sentendo aveva già sentendo lui un mazzetto. Certo, se uno si rompe con la nostra sbaglia, la cucina fa così. E voi non dovete più mandare. Se uno fa cortesia per cortesia, gentilezza per gentilezza, le cose si sistemano sempre. Io non tollero quando uno fa il prepotente, ma tu, ma qui, ma il tuo baracchino, io baracchino non agio, innanzitutto, ok? Io modulo con queste radio e sono radioamatore. Se tu hai qualche problema, verifichiamo. Siccome io prima di fare questa cosa ho fatto una telefonata e mi hanno detto prima di intervenire lui, dai uno sguardo, dimmi com'è la situazione, ok? Quando mi sono accorto che la situazione era del tutto proprio schifosa, abbiamo prima fatto quello che dovevamo fare, mettere tutto a norma, a spese mie, proprio per non avere problemi, a spese mie. Ho visto che il problema era suo, siccome era una signora di 70 anni, vedova, da sola, non volevo crearle dei problemi perché mi dispiaceva, poverina, e allora ho cercato di sistemare il problema, ma molto gentilmente, perché sennò me ne sarei sbattuto le balle, avrei chiamato l'escorradio ed avrei fatto un impianto nuovo, però gliel'ho fatto io e tutto è finito lì, e non ho mai più avuto un reclamo da nessuno, perché nel mio palazzo uso 1000 watt in HF e nessuno mi rompe le palle. Quindi ripeto, di queste persone che fanno i prepotenti, che dicono qui, là, i baracchini qui e là, sono loro in torto, non noi, perché noi non disturbiamo nessuno se l'impianto TV è fatto bene, capite? Se stai in due come l'antenna, e gli apri il cielo, stai disturbando. Sono in cucina io. Lo fai là, fai i rami, le palle, e ci si può vedere. E se ti posso bugia a 30 ora, io sto pagando le scatole, non devi rompere le scatole, se lo fai. E Anto, ma questa gente purtroppo vai tu a fargli capire come hai detto, quindi hanno gli amplificatori d'antenna perché vogliono il segnale al 200%, poi non si accorgono neanche che il segnale è doppiato, ma tu immagini, noi siamo saliti su con Franco, l'antenna puntata a Monte Oro, che a me mi arriva anche senza antenna il segnale di Monte Oro, gatto ci aveva anche il preamplificatore d'antenna, abbiamo preso e l'avevamo eliminato, gli avevamo messo l'antenna diretta col correttore rapido, quello maschio e femmina, con l'antenna diretta attaccato al ripartitore, abbiamo fatto tutti i piani, erano tutti contentissimi, perché c'era addirittura un signore che non disturbavo e mi ha detto, siccome io ho fatto passare Franco come tecnico, perché giustamente devi fare così, Franco gli ha detto, guarda, abbiamo fatto tutto il sistema nuovo della centralina, eliminato, guardi, da quando ha tolto la centralina, ha detto il signore del primo piano, io vedo molto meglio tutti i canali, prima li vedevo tutti doppiati, cazzo mai fotta, si vede lo segnale a 40 dB, quando tu vai in Monte Oro, cazzo a un chilometro, come fai tu a mettere il preamplificatore d'antenna? Il preamplificatore d'antenna si mette se il segnale è debole, ma siccome il segnale era già molto alto, te lo preamplificava ancora di più, si portava dentro tutta la mondetta, le moto carrozzella, dice non sentono più nulla, il segnale è pulito, pulito alla grande. Io sto l'antenna vicino all'antenna di fuoco e non disturbo niente, cioè più vicino di me ma purtroppo ti ripeto, vai tu e faglielo capire alla gente. Vabbò dai, Anto, che sono già alle tre e mezza devo uscire. Alle tre e mezza devo uscire che ho un appuntamento. Ci sentiamo, stammi bene, ci sentiamo stasera, salutami a Pierpaolo, a Luca quando rientra e quelli che stanno ascoltando. Ci sentiamo più tardi, ciao ciao. La pagata, vai faccia. Ok, ma avete più troppo attimo di partenza. Ma sono a 30 watt, 35 watt modulati con l'MV più 4, sempre, perché stanno in più 3, ha detto Luca che la modulazione sì è forte, però è più bella questa. Sempre uguale, perché? Allora, così sono a 35 watt e così sono a 50 watt. Ma gamba, se c'è Luca, poi fa parte di Luca. Non so se c'è Luca, lui. Altro che stava andando in cucina. Ascolti, un attimino, la voce veloce. Mi sto mettendo la porta al tessista. Nulla senti. Il rumore dell'alternata, buonasera chi ha salutato. E buonasera, la stazione mitragliatore qua, gamba. Mitragliatore, qua mitragliatrice, me l'ha ascoltato, gappa. Fa vedere in quattro, lo c'è lì, tu dove lì? Sì, sono qua, ci spacca tutto, lui è mitragliatore. Già conosco Sant'Orsola. Sant'Orsola, e non lo senti? No, io sono con la camionata, non mi è sparito, Carlo. Oh, ah, lui ci mette i problemi di recensione. Se non vedo niente da qua, Gigi. Sant'Orsola, ti arriva bene, sono qua sul coso di attraversamento qua per Valcari, ma non per Valcari, per Alghero, dai. Ah, qua è fortissimo già, Pier, è 9.30. Scala, ma stessi. Arturo, ascolto io della verità. Mi hai sentito piano, ciao Volta, ma sei come il vaccino. Ciao Arturo. Ciao, ciao, chi sei? Luigi. Forse non ti senti, Arturo, aumenta. Dai, Gianpa, mi ha fatto piacere ascoltarti. Quando si assassa, rifammi una chiamata che ci vediamo in verticale. Ciao Gigi, lo si dovrebbe essere anche Luca se non sta mangiando. Ci sentiamo dopo, devo uscire se non c'è in ritardo. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao a tutti. Silvestro. No, c'è un Paolo Brigante. Cappa, se non te l'avrei sentito, ma in zona sei? E che sei molto forte qua, Io sono qui alle punte, mi sta entrando dove c'è il capolino. Cappa. E a me forte mi senti lì? Abbastanza, 9.30. E io sono qua lì malenta, Un attimino di bianco che scendo, ci sentiamo dopo. Gappa, fai. Buonasera. Gappa, ora ti affianco al deposito mio. Nel parcheggio mio, sì. Sì, che c'è da farmi le bolle per domani mattina, capito? Che domani vado in Corsica. Gappa, allora bene. Ciao. Ciao Gianni Doppio. Ciao Luigi, c'è tutti gli altri amici, dai. C'è anche l'amico che c'è, non mi ricordo come si chiama. Quello che c'è da Capolino, dai, mi hai sentito. Ciao Claudio, buon cuore X. Giampaolo Brigante, fratello di Euro Tamburino Sardo, e l'altro fratello è Ivan Siberiano, capito? Sono tutti amici miei, dai, che ci conosciamo da un sacco d'anni. Cavagava, ben sentiti a tutti allora, dai. Bomboli, dai, però sto dicendo che il radio entra a Euro Tamburino Sardo, che la propagazione si sente solo perché è fuori sul continente, IVA, Siberiano, a volte la nome quando c'è propagazione sul 45. Pagava. Sì, ho capito. In trasferta. Da lì, dai, abita lì di casa e lavora lì fuori, dai. È già coordinate in quelle zone di Milano, che viaggia lì. Ma siamo sentiti stamattina. Stamattina siamo incrociati con Giampaolo, gli ho mandato i saluti, e invece poi siamo sentiti veramente per radio, dai. Ci siamo sentiti, lui era con le coordinate lì, ero il coordinato di Oristano e ci siamo usciti a parlare. E la bellezza della radio è quella, che senti anche gli amici che conosci di Sassari, che sono lontani. Non dico sempre, ma almeno quando c'è propagazione.